chi è avanti sul 10, CQ 10. Attenzione Natalino, se mi ascolti. Sento Natalino. Chi è chiama Natalino? Ma te stavo chiamando. Ascolta, io non sento nessuno perché c'ho lo squelch inserito. Chi è che mi stava chiamando? Chi mi stava chiamando? Cosa ne so, Cubo? Chi è che stava chiamando Natalino? Vabbè, puttiamoci. Cosa vuoi ti dica? Vabbè Natalia, c'è stato il baracchino. Negativo. Questo qua, questo non esce bene. E questo è l'altro, lì non si chiama Carruccio. No, va bene, è bello questo. Sì, è rubito. E domani vengo. Vabbè, e ci vuoi fare. E quando... Ecco, allora... Faccio questo, prendi i ricetti di medicina, grazie. E anche me le faccio mandare tramite email, vado a me le stampo. Quanto costa la stampante Natali? Più o meno. Break. Avanti. Avanti già. Ehi, buonasera a tutti, dai, doppio rum. Ciao, già, abbaccia i pozzi. Vai, vai, vai. Ah, il doppio rum, ma ti sta arrivando Gianni così? Mi puoi controllare, guarda un po'. Mi sta segnando male qua. E me, che fine avete fatto? Che la posso venire? Sei qua come quel Gianni? Perché, cosa è successo? Non risponde. Non riesce a tagliarla? È un cuocuomane. Se l'ho visto sotto al ponte con la ciabatta incopicata nel braccio, ciabatta della corrente elettrica. Stava cercando di dare tensione. Aspetta un attimo, Luca. Ecco qua. Tutto fatto, così mi compra le medicine. Cazzo, non mi escono più in formato PDF, escono con un codice, deve essere loro, lo scrivono nel computer e gli dice che medicina è. Allora me le manda via email e poi lo stampo. Sì, ma a me non mi arriva la ricetta come era prima, capito? Strano. No, così è. Prima mi arrivava la ricetta, leggevo che medicina era e tutto quanto, invece no, avevamo arrivi un foglio che c'è scritto per chi è il codice, di un codice c'è e deve essere da che su codice disegna la medicina e ti devi ne dà. Ah, ho capito. Prima invece mi usciva la ricetta proprio, stampavo proprio la ricetta bianca io, capito? Sì, sì, sì. Diciamo quella elettrica, dai, cioè, si chiama così, ricetta elettrica. Elettrica. Quella elettrica ti dà la scossa. Quella elettronica volevo dire, cazzo elettrica. Cazzo, mi si guacuoma, nene. Ti sei confuso nel confonderti, così è. E allora? Secondo scalama, secondo scalami si arrivendi. Siamo vicini, C'è la Sant'Anna, si vede, no? È di brutto pure. Ma c'è un cocco, ma non è questo, per forza. Mi camionista è entrato. Attenzione amico, dove ti trovi? Adesso Rugariero ti ascolti questo amico, la modulazione, grazie. Già ti ascoltiamo, gava gava. Cosa ti credi che ce l'hai solo tu, Lego? Ordinate da parte mia San Giovanni. Gava gava, io ero lì vicino a casa di mia cognata, gava gava. Adesso sono rientrato. Devo sapere se mi stavate ascoltando in quelle zone lì, cambio. Se non ti ascolto in quelle coordinate devo buttare via todo. Narabiruga. Positivo Cavarra di Avrare. Hola, attenzione California. Attento California, ci ascolti qua con 2 watt di potenza, gava gava. Gava frate, io ti ascolto benissimo qua, queste coordinate, Santiago 910, Radio Super 5. Gava gava. Cosa stai facendo Natalino? Andiamo, andiamo. Qua è arrivata la 50, Franco, ma ce l'hai col frustino, cava cava. Franco, portami il frustino che devo frustare la 50 qua. Chi mi sta a farti il ciccoso? A Giovanni Vararia, casa di me. E mi vado in fondo di quella lì, te l'immagini. Portami il frustino. Cava frate, come ti trovo? Te lo dico che ce l'ho in macchina, cambio. Fanculo, sentitola, sentitola, a questa bisogna frustrarla di brutto. Non si sente nulla qua, non si sente. Non si intende, no. Non si sente, non si sente la talì. E onde ci andiamo, bravo? Sono a San Giovanni, sto facendo la commissione, capito? Io arrivo bene, questo c'è più forte dell'altro, no? Ah, sul 9.20 sta arrivando qua. E sul puntino del 9.20. Cava cava. E la radio com'è? Va bene? Cava cava al 100%. Già vabbè. Vabbè, ma questo dà più watt dell'altro, eh. Sì, vabbè, si manco con 2 watt, figurati, si aumentiamo la battenza. Io, vabbè, lineare non ne ho, però qualcosina posso anche aumentare. Allora, a me mi stai arrivando 9.10 a San Giorgio, capito? E lì ero, in quella zona lì ero, poco fa. Ecco, lo lascio così, se va bene, perché se lo metto non mi piace. Come modulazione, se va bene, la lascio così. Eia, che va bene. È di lusso quell'ecco lì così. Io non lo so come sto uscendo perché mi dovrei ascoltare. E quindi non so come sta uscendo il mio ecco. Qua sta arrivando benissimo qua, ti ascolto bene. Va bene, adesso lo so, qua, che se no anda male. Ecco qua, tolto. Ma lo puoi pure lasciare, un pochettino. No, io questo qua l'ho messo al minimo. Ma non so come regolarlo, io l'ho messo così come ti mi è capitato la giubbuccio. Già va bene, dai. Questo è quel 48 che mi ha dato quella persona là. Andrà bene me da. Con quello compiti di brutto in macchina. Cava. E vabbè, lui. Oh, me l'ha dato perché non accendeva, c'era il diodo. Il diodo è sparato dentro, capito? Quindi non accendeva per quello. Ebbè, se si è copiato l'udiodo. La circolazione. Ma accendia. Ma lui me l'ha detto che aveva avvertito la polarità. Non se ne è accorto. Vabbè, me l'ha regalato un attarino. Io ho cambiato un diodo zen che c'avevo qua di un altro baracchino e ce l'ho messo sotto. Ho visto che già va bene adesso. La radio è quella roba lì, non l'ho toccata. Ma la carusia anda troppo bene. Poi è chiara, esce bene la radio, si capisce quello che dici. Non è un ecco brutto, là. Regolato così va bene. Ma il bip piace? Sì che c'è. Perché mi ha detto che c'era anche il bip lui. Sì che c'è. È un po' contrapegnato di mascherina, ma già va bene, è da battaglia questo, dai. Diciamo che va bene. Anda bene Mela, dai, no problem. Luca! Attento Lucariello, cambio! Ti hanno adattato uno di quei microfoni della Midland, però di quelli particolari, capito? Sì, quelli neri li mettono i camionisti a quei microfoni neri della Midland, già ho capito. A metà. Ma qua non c'è neanche la spugnetta dentro. E vuol dire neanche vada. Ma già andare, dai, al limite se la muschi una spugnetta gliela metti lì. Da un altro microfono vecchio. Va bene, FM non l'ho provato. Non so se funziona l'FM. No, non ne hanno FM quelli. Quelli che hanno. L'ecco glielo tolgono l'FM per far posto alla scheda dell'ecco, capito? Ci saranno anche i canali in quell'apparato lì. C'è i canali, il pipi, praticamente la regolazione dell'ecco gliel'hanno fatta sull'RFG, capito? RFG e MKG. Adesso ce l'ho al minimo l'RFG, il MKG. E là caro così andava. Allora c'era lo Schmitter che era bruciato, che era passato, cioè sicuramente era inchiodato, gliel'ho cambiato. Poi gli ho cambiato il diodo Zener e basta. E poi gli ho dato una pulitina così e praticamente l'ho richiuso un'altra lì. Andava bene, dai, da battaglia, ultimo per la truppa. Sì, da battaglia proprio, eh. Quello è un baracchino da combattimento. Devo convincere. E beh, per forza, perché gli fanno quelle modifiche lì, è logico che peggio. Non è più come era prima, no? Tutto modificato, capito? Ah sì, c'è il canale anche di sotto, l'altra lì. C'è il 45 pure. Già lo so, li fanno apposta così. Cava cava. A me mi piace chissà chi fa l'elicottero binari, quello come quello che aveva Gigi, tanto lo quasi urla io. Ma io ho pure un pacco di denaro, c'è il doppio modulatore e questo c'ha la scheda, ma secondo me non è scheda a colto, è un'altra scheda che gli hanno messo, capito? Ma già va bene, a me non è. Non è che mi interessi più di tanto, ecco. A me mi interessa la radio che vada bene. Sì, già va bene. Fare a fianco a me. Bene scheda. Va bene sì, dai. Così che ok. C'è una bella modulazione, mi sto ascoltando, dai. Già va bene, Natalie. Cambio. Ora, ora. Lo lascio così, lo lascio, capito? Però Pippi non la sento io. Tu non lo devi sentire, no, ma già lo sento io. Cava cava, ricordami che ti passo quel frustino che me lo lasciate in macchina, capito? Se no questa non la posso frustare io. Perché ce l'ho in macchina io quella frusta, così la utilizzi anche tu, capito? Ogni tanto una passata, così almeno non mi rompe più le scatole. Queste donne sono un rompimento di scatole, Francesco. Lo so, ma io l'altro giorno mi sono dimenticato di portartelo, capito? Io l'avevo regalato, ce l'avevo un bel nervo di bue, gatta, l'ho regalato a un amico. Ma ce l'ho io, quello lì, non è un problema, capito, Natali? Ce l'ho io quel frustino. Ah ecco, c'ha la tonalità più forte pure, guarda, così è di meno. Duca, là, come tira prima che andava benissimo. Non ho toccato niente, mi lo lascio così come era prima. Se mi stai dicendo che va bene, io non tocca se. Non tocca se niente qua. Capito, Fredi? Metti l'attacco che lì e non toccare più nulla, che già va bene. Così no, non si muove più nulla. Questo ce lo metto in macchina, ce lo metto. Sì, gara gara. Andave. Ascolta, in settimana dovrei salire a piazzare quella cosa io, capito? Buscati un centrale che facciamo quel di Polo là, il ricavo ce l'ho io che l'ho tolto. E ce l'ho qua pronto. E cosa devo buscare io, Natali? Un centrale per avvitare il PL. Il centrale. Ascolta, io ho una basetta di quelle basette famose dei baracchini, quelli che si possono fissare su una carcassa di plastica. Dai. E tu busca quello e poi ti faccio vedere. Ascolta a me, se invece li mettiamo in mammut non va bene lo stesso. Sì, ma devi eliminare il PL allora. Tanto non ce n'è bisogno di questo PL femmina. Ti metti due mammut, uno di polo caldo e uno polo freddo e va benissimo. Fermo di gusti. Se no devo usare zaffa, cioè ti metto due cappuccetti e ci ricordo bene e va benissimo. Poi questa zona già va bene, già prende, tranquillo. Sì, almeno di piglia. Dovrebbe andare alla grande, ma ci sono problemi. Sì, cava cava, io lo volevo fare per tenerlo, perché lo devi attaccare al palo dell'antenna e poi devi attaccarla ai due lati, capito? Io lo volevo fare bene. La pista è lontana, ma è già pronto, è da fare. È da fare, il centrale è da fare. Ti buschi un pezzo di plastica, qualche cosa rubemmo, non è problema. Ascolta, ho una di quelle scatole ermetica per le deviazioni, i più DVC, va bene anche quella, si fa il foro giusto, poi si silicona e si mettono praticamente due cappuccetti, capito Natalia? Dovrebbe andare bene alla grande. E centro Viru Trento, Viru Saggio e Brumelli. E vabbè, nel coso comunque, diciamo che già ci sta, dai, nel mio terrazzo. Già ce n'è spazio lì, capito? E la te l'avevamo già attaccata, una cosa simile, e ci sta di brutto. Poi questo è più corto pure di quello che avevi tu. Natali, io ce l'avevo, capito? E poi c'era rotta l'antenna, ne aveva rovinato tutto, l'antenna VU, c'era tutto già su piazzato. Poi è successo quel casino che si è rotto il tubo, si è rotta l'antenna e ne ho stracciato tutto. Tutto lì. Sì, vabbè, ok, dai, no problem. Cava, va bene, dai, comunque non è un problema, già si risolve. Anche perché l'antenna è già a posto, pronta a piazzare, sotto. Gli ho lasciato 20 centimetri all'interno, da elemento su, da elemento a elemento, e poi salgo con la definizione del centrale su, capito? Recupero con l'allungamento di un altro stilo. Sì, vabbè, non devi da molto, Trento. A chi canto flette? Da voi sì, almeno più flette meglio è. Capito? La mia l'ho fatta così, in modo che anche quando piega non gli fa nulla. Però quello che ti stavo dicendo io, che dentro gli ho lasciato, gli lascio 20 centimetri, ogni elemento le lascio 20 centimetri, capito? Siccome che sono 1, 2, 3 elementi, anzi 4 elementi, capito? E sono 2, 4, 6, 80 centimetri, e quegli 80 li recupero nello stilo centrale della fine, capito? Lo allungo da lì. E così evito che si rompa. Macchina mia si faccia. Appila il vento di una maniera. Vabbè, io Natalia la faccio così, poi va bene così, capito? Non ne voglio lasciare 10 cm, lo allungo a 20, quindi non cambia niente, capito? Perché poi lo allungo dallo stilo centrale, dall'ultima fine. Se invece di essere 40 lo faccio 60, non succede niente. E fai così. E anche il fatto che lui dovrebbe andare alla grande. Sì. Gaba. Adesso non lo so se domani ha dato più già. Boh. Cosa può fare? Questo tempo non se ne capisce più niente. Per carità. Andar bene Meda. Andar bene Meda, andar bene. Gli ho messo una di quelle spugnette qua dentro ed è gava questo microfono adesso. Quale microfono? Questo che sto usando adesso. Ah, quello di quell'apparecchio là. Questo è allora quello che uso sempre. Gli ho messo una spugnetta per abbassarlo un po' perché sennò amplificava troppo. Ma va bene quel microfono, dai. Io ti ascolto benissimo qua. Non ci sono problemi, capito? E a due l'ho messo, non di più, perché sennò amplifica troppo. E a voglia che va bene. Cavagava. Cavagava e cavagava. Ui ui. Andiamo. Sì, andiamo a Verumi. Ho preso degli ami, quando è stamattina, micci di Aliso. Di quelli barritusti vogliono. Barritusti, se vedi questi ami, c'hanno una punta al carbone. Secondo come tu che ce l'hai già nel dito? Sì, già lo so. Di quelli che hanno le punte affilate con laser devono essere. Esatto. Comunque mi ha chiamato Sandro e ne ha preso due oggi. Lì dove ti ho detto io. Una a 2 kg e l'altra era quasi 6 kg. I mortacci sua. Cava. E noi gatto non stiamo prendendo un Kaiser. Oggi era di riposo e se n'è andato a pescare lì. Vabbè, lui c'ha la casa lì. Sì, io lo grido a lui e puoi entrare. Lui dal mare cos'è? Fatti un paio di metri e già lì. perché dove c'è la casa sua c'è un canalone grande, te l'ho spiegato. Infatti mi ha detto, quando scendi mettiti sulla sinistra, di fronte a casa. E a chi è Durusano di passa? Io penso che non lo sa. Beh, lui fa pesca su pure. Capito? Signor Risai e Duriro che garisà. Impiegabile, dove? Quelli che fanno pesca sud lo sanno dove è la situazione. Perché io gli ho detto, ma come ti fai a piccare, no, figliorate? Quando c'è il fondale passo, passo mi ha detto, e passo per un paio di metri. Poi dice che c'è uno strapiombo che scende a 25-30 metri. E in chi gli passa? Ne l'ha compreso, ne ruga la rona e basta. Ma infatti a terra non ne va. Sono a 200-250 metri, praticamente il canalone è a quell'altezza lì, capito? 250-300 metri. Ma detto che c'è questo strapiombo dai 25-30 metri. E poi continua a scendere. E in chi vi collegano ricchimi? Quando si va a Rubondo è da andare a cercare i canolicchi in chivi. E anche così vanno bene, quei granchi di spiaggia. Non so se li conosci. Sì, quelli piccolini, già lo so. Anche con quelli lui li prende. Praticamente prendi un pezzo di carne con una cannetta, gliela metti nel bagnasciuga e salgono da sotto la sabbia. E poi li mette un sacchetto. Ma ha detto che sono micidiali quei granchisti. Io non credo già. Chi si sigli di biate, no? Ma infatti dai, quando se migliora il tempo, scendiamo, capito? Lì non ti rompe le palle nessuno perché è privato, capito? Non ci puoi entrare. E poco fa sono sceso la mia cognata, gatta, perché per una commissione dovevamo fare con mia moglie. E gatta, adora più bene, ma io, gatta. Adesso vediamo se migliora questo cavolo del tempo. Ma giù messo tutto, si può dire. Questo tempo, comunque domani pioggia, mi sa che non è adatto. Capito? Dovrebbe andare miglioramento da mercoledì, così dicono, poi è da verificare Natali. Verifichiamo, cosa vuoi ti dica? A un certo punto. Oggi mi sono fatti circa sera, mi fanno male pure la testa del femore, dove è attaccata la gamba, lì. Deve essere fare un dai e ti venissi di loro, cosa ne so? Oltre la gamba, ma oltre quel dolore che mi viene, anche il femore mi faceva male. Ma se te l'ho detto io, che c'ho quel fruttino, se me lo ricordo te lo passo, dai, così... Così te ne dai un paio di frustate. A vedere se li biandi, a chi c'ha buone figli. Ehi, la frusta, la frusta, stiamo parlando dei frustini qua. Andiamo bene, andiamo. Non ne le dire, non ne le dire, Natali, non ne le dire. Non so così ammazzare la volta a buia, chi sa che... Lei è d'accordo, Sì, sai cosa ha detto Zendi, chi sa, bravo. Meno male che mi metto la mutanda a rovescio. Allora mancano tipo minucci. Sì, da domani mi ripongo pure io all'inverso, a chi un dice non si sa mai. Ti muovo io prima detta, cazzo. Non mi piace a me, a chi è dalla vecchia, non so che. Io sono più giovane, ed ancora non lo comprendi. Chi deve morire è da prima di me. E lei è d'accordo, No, che non è d'accordo. Andiamo bene, occhi. Come ti hai detto, Peppino butta la pasta. Andiamo bene, andiamo. Chi è che sta con questo eco? Io. Ciao Tony, buonasera. Ciao anche a te, come mi senti? Troppo eco c'hai Tony, non ti capisco. L'ho tolto l'eco. Adesso già va bene, dai. Capo di Rogero. Vai Natalino. Ciao Tonino. Ciao Natalino, ho sentito qualcosa. Non parlate di queste cose che sono bruttine. No, perché gli ho detto che gli davo uno di quei, come si chiamano, va. Di quei nervi bianchi che c'erano nel cofano, di quelle verghette, come le puoi definire? Ma l'orefio? Ehi! E cosa devi fare con l'orefio? Lo vuole Natalino, lo vuole. Accatevi così. Accoggetta. Ha detto che ne dà un paio di passate. Concetta, allora ti lo matterei la testa. Ebbe parabasimi, no, è burumà, ma ragazzi, cazzo, ya, se ti vedi qui da me è da. Ma che ci voglio brustinare con il mio paio di colpi? A te, concetta, di buona curri, a sua gioca, fai da bravo. Forse non ti sente Natalie perché c'hai le cuffie adesso, capito? No, io senti tutto, ma ragazzi, io sono curonfia, ya. E ridarò mai fa. Dopo lavoravo io, c'era il gatto e la volpe, Natalie, capito? E allora, ma te lo immagini, a questa qui. Ma dove si fa? Dove lavoravo io prima, la Zanussi, c'era il gatto e la volpe, no, due succi, c'era il gatto e la volpe. La volpe era sempre più furba del gatto, a che butia sempre. Prova ne sia che gli ha fregato anche il capannone. Oh Franco. Dimmi. Dove sei? A casa so. E così basso arrivi. Come così basso? Sto usando una parecchio nuovo gatto. Su, attenuato mi arrivava sempre 5-7, adesso arrivi uno. Perché sto usando un baracchino veloce cioè per macchina, Antonio. Capito? Come stavo regolando la radio. Esce più mio però. Cioè aperto tutto quanto arrivi 9:20, però se ti attimo arrivi se attimo uno, non si mai rivido che ci faccio. Vabbè, adesso lo stacco e attacco l'altro, dai. Vabbè, come se lo sia, fra. Già sta migliorando piano piano, Tony. Problema sempre del braccio. Però ci vuole tempo, capito? Perché sono attrusi ed è un casino. Capo, già lo so, saluto per la parte mia. Andò bene, avanti, Catalino. Ui. Anche io sono tutto messo male a dolori, mamma mia. Anche il femore mi fa male oggi. Dì la verità, Natalie, tu dici anche oggi mi fa male. Chi sei concetta che ti ha avuto un bacio di mattarello? Un po' più di mazzetta mi ha avuto. Ma com'è non c'è Gianni qua? No, già era in occhi, solo che si è avviato, Forse a portare il cane. Non lo so che fine ha fatto, non ha più risposto. O se drumindo, vicio, o è uscito, Poi la stamattina si è preso un po' di canoli da procolella. Oh, invece da quello che ti paghi se non ha gana di modulare. E allora, ne ha inviato sì e si è mangiato 7. Ah, ci siamo inviati, Ma diti che si mangia tutto di colpo. Questo Gianni è un cuoco, ma ne è, Tutto si mangia, chissà, ui. Per carità, perca, comunque un tempo di graziato così non l'ho mai visto, Caipita. Un nuvolo nero, stuoni, fulmini, ghinde, ghindasso, ma oggi non l'hanno perché è stato piove. Cazzo mi, non so che è punito lo zero, Ola, ola, ola, ola. Avanti tu, ola, ola, ola, fra. Guardami il segnale adesso com'è, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cazzo, attenuato 6, 8, cazzo, per forza, non è? Natalia, da te quant'è? Quanto? Allora, 9 ne più. Fanno scala fra qua. Ma va oltre? No, stai toccando lo zero della B, proprio di B, B, B, B. Ero come che andava oltre. Va bene, dai. E tu vuoi troppo va. Ma mi vuoi sbarrare lo smitter? Se corre ancora da solo esce pure se n'andami. Non c'è da minimo. E vabbè, propagazione c'è. Caravaggio avrà che mi buoni da portante così al manco ti posso una fotografia e ti lo posso vedere quanto sei arrivendi. Ora ve la portate qua. Franco, ma a voi parito. Franco, metti la portante. Attenzione, Franco, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Franco, attenzione, Franco. Ma cosa vuoi ti dica che? A me pareva un'epidemia il baracchino. Dici che vero già ne hai parito. Vero Franco è parito muruetto. Ma cosa vuoi ti dica? Perché la Luca? Sappiani e non rispondi ne più. Tu dico come ne gioca. Ma cosa vuoi ti dica? Ma andiamo bene, andiamo. Andiamo bene, andiamo, no? Ma insomma, diciamo con due pari. Cosa Dorin? Ti stanno chiamando e non sono risposto. Allora Tallido ha detto, metti la portante, un pochettino parla con me, quello che vuoi. Che Natalino ti fa, la foto te la manda quando è arrivato da lui. Sì, sicuramente lo farebbe di basso. Lascia vedere. Adesso sono a minimo mio. Minimo minimo minimo so. A minimo minimo so. Lascia vedere. Così come è Tony? Fa uno scala, mi stai spaccando lo smitter. Allora già va bene, dai. Natali, fatta la foto. Sì, mi ha giocato così. Così lo vedi fra. Signora, Natali, a fondo scala. Cazzo, se ti dico che non finirà più, cosa vuoi che ti dica? A balle ti dico. Una trantenna di gomma. Figurati quando ho perso la trantenna. Quando piazzi la trantenna, la vedimo. Cazzo, se una cosa non si chiede, fondo scala. Che brutto, Tony. Quella tu la fondo scala. Eia. Io voglio attaccare un'altra cosa, voglio vedere come ti arrivo fra. Aspetta un attimino. Faccia con comodo, lo faccio, io vado un attimo a prendere la sigaretta. Scusa un attimo, Natalì, prendo su. Sì. Se tu arrivi bene, Natalì, 9.25, quasi 9.30. Mi ruscio alla grande. Ma con due vatti però, io sono. Sì, io sto uscendo con 5 vatti, non è che sono qui scendi. Io ho due vatti, e in più ho il filtro anti-TVI, per non disturbare, quindi esco ancora più basso di quello che devo uscire. Come già va bene, dai. Ho preso la cicaretta che... Fuma, fuma, che longa! L'ho ideato. Resta a buttarci via, Rattarino, non riesco! Attenzione, Franco! Cazzo, tu lì! Dove... quasi 9.35 sei arrivato! Dimmi adesso come ti sta arrivando, 1, 2, 3, prova di modulazione. La radio è bella, il segnale è ultimo. Il segnale quant'è? Nota. 1, 2, 3, prova di modulazione, in questo passaggio oppure così, aspetta, ecco, adesso ho abbassato, quant'è? Allora, da 9, da 9.20 passa a 9.30. E da te Natalì? Anche. Non ho capito. Anche, uguale. Come andava bene. Sì, ma non mi piace, boh, attacco l'altro, dai, attacco la terra qua. Perché non ti piace? Tu rimanga a Cariscio, boh, che hai sempre già bene, perché non ti piace? Però camminare un pochettino, se non si vuole, sta tenendo lo fermo. Avrà camminato vizio troppo, adesso metto un po' a nanna. Ma lasciala andare, se non li usi gli apparecchi, ci rovinano i tuoi. Già lo so, io te ne ho una paduglia a uno. Ma sento cupo la radio, quello non mi piace, invece con l'altro baracchino sento chiaro chiaro, più perfetta. Adesso la stai usando? Eh? Ma la stai usando adesso? Oh, sto usando il vetrecai. Sì, va bene lo stesso, non c'è problema. Guarda, e l'altro non ce l'hai, quello nero? L'altro è Galaxy, che la conosci e poi c'è una ricezione perfetta. E l'altro venduto la vivi. Quale altro? Quello nero che c'hai. Non ho capito. Ma vedi uno nero tu. Quello nero ce l'ho sempre qua. E non lo usi. Non lo uso perché non ci capisco il tubo, è un casino, Ma cosa cazzo casino, è un giocattolo da usare. Ma no, io non ci posso andare nemmeno a controllare. Mi vedo e me lo cavo dalle balle. Boh. Ma te lo stai vedendo quello lì? Guarda, se me lo accendo mi tiro lo sono andato subito al volo. Cava capa, lascialo stare che forse interessa un amico, dai. Me lo chiedo e ti faccio sapere. Ok, che problema. Cava capa, metti il Galaxy con quello là invece. Non ho capito, il Galaxy? Conosciute. Sì, a te che adesso lo attacco. Vai Natalì. Sì, cava capa. Cotto, Io sto usando quello lì. Io vado piano. Sto usando. Io vado veloce. Mi si dispiace, ma che su 3009 va, ignorava una cazzo, come ti è voluto andare, sta parecchio. Dimmi tu. Piccolo, sempre tu. Sì, Natalì, già va bene. Questo cosa ci hai messo, quel microfono a tavolo? MB+4 c'ho attaccato. Non va lontano, il mondo è pieno di cose. Ma perché non metti il panel più 3, tu? L'audio compreso. Ciao, ciao Gianni, buonasera. Perché non metti il panel più 3, Natalì? Perché avevo fatto gli attacchi per il coso, per il 23 canali. E mi tocca rifare gli attacchi, mi. Mi già, Franco, va bene così, 1, 2, 3, prova. Bella radio tu, sì sì, una bella radio, bella. Amplifica, sì. Questa è una propria etta, va bene. Appena, però. Sì, Corea, quanto non le fa? Adesso te lo regolo io. Parla tu lì. Dai, lo ha passato. 1, 2, 3, prova di modulazione. Ciacchi, ciacchi, ciacchi. Allora, fa una cosa, miglia la boccetta di latte che e poi ne viro nel coso del volume. Così va bene. Ma con il latte non c'è, non lo bucca. D'accordo. Va benissimo, ma non ne metti 60. Ma hai detto pure già, ne sono andato ratto. Benissimo. Guarda, capito la tarina e togli le connessioni, quello di sopra e porti sotto. Non hai risolto il problema, amico. Caro gioco, tre fili solo a giù attaccare. C'è manco l'Inghilterra, quando hai capito? Devo attaccare tre fili solo, perché la ricezione ce l'ha già questo, capito? Bisogna che Rubiglia e Mappenti a 5 minuti ero vuoto. Ma non ha giocato, la virità è giudicchia. Sì, vabbè, lo fa un altro momento. Non è un problema. Ciao Gianni. Fra, sono incazzato meno. Vi è partito l'alimentatore grande, quello di nuovo. Ai, ciao Gianni. Come vai? Accende, non dà corrente però. Non dà corrente, non dà amperaggio. Sempre il gas di uno nei sussidi. Vai, date facendo possibile. Come sempre. No, anche lì accendono gli strumenti, però non dà la corrente, capito? Non ce la fa nemmeno alimentare l'apparecchio. Pensavo che fosse l'apparecchio rotto, come fa adesso, ho cambiato alimentatore e va bene, dai. Masco, che alimentatore è? Di quelli lineari oppure di quelli switching? Di quelli da 50 ampere prox. Come il mio. Allora. Guardato ai... No, ma se sono gli strumenti fusibile non può essere. Se no che viene a 1,30, dove parte la corrente per i 12 volt. Ma non so, Natali, il fatto che adesso ci ha attaccato tutto l'alimentatore, capito? Troppa roba ci ho attaccato l'alimentatore tutto a uno. E adesso bisogna che faccia bene la situazione, se no è un casino. Io un altro ce l'ho di alimentatore di questi qua, però l'ho dato a coso, a Adriano, perché lui alimentatore non ne aveva, se no non poteva controllare gli apparecchi. Adriano! E Adriano! Tu hai detto Adriano! Avevo sbagliato! Vabbè, fra, come mi ascolti di radio con questo microfono? Frank! Ah, stai uscendo bene già, dai! Si riesce domani di l'avevo detto. Franco ci deve essere spostato. Perfetto! Faccio capire. Aspetta che do una controllatina a questo alimentatore. Non c'è chi abbia abbassato involontariamente i volts. Un tester ce l'hai per controllare. Già ce l'ho. Se usa, entra di ghisso i puntali nel coso 10 da 12 volte, controlli a vedere quanta ne esce. Oh Natali, lui spiegami una cosa. Allora, Egalax, col frequenzimetro, adesso 27.075, perfetto. A volte non si capisce che cacchio di frequenza sono, come mai? Eppure tornano male. Quei frequenzimetri non è che sono tanto per la quale mi capito quello del Galaxy, ogni tanto si mettono a ballare. No, esce sorto, rumore strano, io si capisce nulla, capito. Ma li vedono le frequenzimetri, sì? Penso di sì. Vado da Antonio. Chiedi a Franco a vedere. Franco. Dimmi dove? Frequenzimetri ne vendono. Ma penso di sì, la GBC ce l'avrebbe avere anche Fusaro. Perché il mio adesso è perfetto. Non l'ho mai visto così perfetto. 27.075. A volte mi dà i numeri così strani che non si capisce che frequenza è. Ora se ne va casino, adesso è perfetto. Ma cos'è il Galaxy? Ehi, al frequenzimetro. No, ho capito. Comunque Fusaro ce lo dovrebbe avere quei frequenzimetri lì, tu lì. Capito. Ehi, capo, allora. Glielo chiedo, dove è collegato il frequenzimetro? All'uscita della pena, no? No, c'è un circuito già. Non è collegato lì. Invece ha misurato, Ma perché abbasso la potenza qua? Ecco, ho abbassato la potenza al baracchino. Adesso l'ho qui 4 watt. Sì, tanto non ve ne bisogno da venire assai. Io l'ho messo al minimo, quello che stai dicendo tu che non riesci a usare, che è una cazzata, Se mi rarri che te lo controllo giù io. Devo capire tutti i meccanismi. Ma mi sto già scoglionando, Natale, mi sa che lo vedo buonanotte. Guarda che il menù lo devi toccare una volta solo, e buco. Ma no, non mi tira qui, è un casino a me, andare sul menù e cercare. Franco, aveva più pazienza, io non naccio. Sta a giudizio che ti lo ricureggi una volta a tutti. Camminare dietro qualcuno! E da poi ti lo dico io quanti funzionano tutti questi tastini. Ti fa ruotare in un gioco tra ragazzi. Io sto usando quello, amico, 2 watt. Qui potremmo... Questo a quanti watt arriva? Questo qui arriva 16 watt mi sembra in AM, 40 in FM e 30 in banda laterale. Non me lo sono dimenticato, cazzo è acceso e mi ha scaricato la batteria. Adesso la batteria è particolare, non è di quella normale. Batteria? Ma non ce l'avevo l'attore stabilizzato tu? Serve per il tester la batteria, me lo sono dimenticato acceso, Tony, capito? Tester. Ah, la batteria a 9 volts. No, non è a 9, è a 12 di quelli piccoli. Non capito, ma io ho un tester pizza ferroventica che costa un casino. E quello lì quando io la dimentico accesa si spegne da solo, capito? E anche il mio si spegne da solo. Io direi dopo. Chissà che cazzo di detterei. Una batteria che conduce la... Comunque io ho 2 limitatori, quelli switch che ci dici. Uno è 15, l'altro 25 ampere. E sono perfetti. Io ce l'ho da 50 quello lì. Ma quello lì che non ti funziona? No, è l'altro, quello buono diciamo. E uno c'ho anche la ventolina addirittura. Anche il mio ce l'ha vento. Poi come sta arrivando lì? Fotoscala, Radio 5 è super. Che bella. E Franco, è andato a prendersi il caffè. Sarà armeggiando a che cosa? È pagisso che non fa vita. Uno ti giuro. E prima ti giuro, l'ascoltavo male io, con l'altro baracchino. Infatti perché ho cambiato di nuovo di colpo? Perché sentivo un cupo strano, però lo cambio. Non ho capito bene cosa diceva poco fa Franco Natalia, di quel baracchino, che lo voleva lui. No. Che forse interessava un amico suo, stava dicendo, a lasciarglielo stare che lui lo chiede a quell'amico suo. Hai capito cosa ha detto? Il primo che arriva si dormite, ma che adesso le faccio la foto la metto su Facebook. Però su Facebook le metto qualche 10 euro in più. È un peccato, quello funziona bene quei baracchini, anzi il tuo ne dà più di me, del mio, perché il tuo è tirato, invece questo è normale, ce l'ho appena comprato, ma lo davo così. Lo sai, mi voce Ravini del 2009, questo qui funziona troppo bene. Guardami, adesso ti faccio vedere come arriva. Mi dispiace, sul suo canale c'è tutto questo appassionato. Com'è adesso? Si è aumentato un capita, poi si fanno scala. Hai visto? Ero con 2 watt. Me così. Così sono con 2 watt. E tu lo vuoi dare? Per tornare poi a piedi. Tu regoli il menu una volta solo. E non lo tocchi più e poi funziona come un baracchino normale. Andiamo per lì, troppi tassi, troppo casino. A me col Galaxy io mi trovo bene, vedi? È tutto in faccia, tutto tranquillo. Qui c'è tutto niente, non si comprende nulla. Tutti i tassini neri, tutto quanto, non si comprende nulla. Oh, è un giocattolo, è Tonino. Cazzo, se ti pigli allora non dici di che io non ne comprendono davvero. Questa è un'idea, poi fatevi. Questo qui è un giocattolino, lo da... $50. Una volta regolato, io l'ho regolato una volta il... Spendi tra i 250. Come si chiama? Il menù è buono, non lo tocchi più. Natalini. Quindi il menù è quello, il primo tasto a sinistra in alto. Sì, funziona. Chi decide? Se tu me lo porti qui te lo regolo uguale a questo, te lo regolo, non lo tocchi più, ti spiego i tazzini a cosa servono. Poi al massimo devi toccare il tastino per mettere il VIP, la manopola Baru Pallecco, la Buve, l'NBAL, c'è il doppio ascolto, lo scanner, ce n'è poco di roba, però è un giocattolino, non è come è molto complicato come stai dicendo tu. Io mi ho fatto anche il VIP più corto, guarda, adesso ti faccio sentire il VIP mio, non è quello originale, io l'ho fatto più corto, tipo colpo. E capo, c'è le stesse volte del Galaxy, ora metto che va anche sui 10 metri, perché c'è scritto 10 metri al radio. È una fettina dei 10 metri, quando... In orizzontale? Quando è così che va sulla 27, perché sennò quando è tutto 10 metri prende tutta la banda dei 10 metri. Hai sentito il VIP piccolino qui? E il VIP tipo colto, cioè, gliel'ho fatto io così dal minuto. Avanti, Gianni. Gianni, anche lui è sparito. Sì, Gianni, sarà Armegenti con l'alimentatori. Non pensiamo più. Andiamo nel... Sarà Armegenti, compreso. E se lo c'è a destra che c'è la batteria scarica, eh? Per vedere quanta potenza sta dando, o sa che c'abbia i, come si chiama, i volt abbassati, mi pare strano, ma vediamo un po' se metto gli piedi. Io uno l'ho dato a cosa, ce l'ho un altro, ma l'ho dato a Adriano perché mi deve, sta controllando il 3009 se riesce a aggiustarlo. Ecco, io ho pizza pianoetica digitale, questa è pizza pianoetica tutto digitale, c'ha la padina, accende, spegne, ma è bellino, 180 euro l'ho pagato all'Elco. Io ho uno da 30 ampere e uno da 35 di quegli strumenti, e quello da 35 l'ho prestato a Adriano perché mi sta aggiustando la, e lui non ne ha, no, ha buttato via perché Baracchini non ne aggiustava più, capito, lo sta facendo a me a titolo di favore, se no lui i Baracchini li ha abbandonati. Ma io ho quei due dicinici, un altro 12 ampere, quindi funzionano tutti, quello 32 ampere che c'ha anche la accendisigari davanti, questo c'è la ventola, lo smitto, questo mi ha dato Manuele, hanno fatto scambio. E anche il mio c'ha gli strumenti, la accendisigari sul frontale, la ventolina, tutto va. L'esperienza della sfida con le parole. L'altro è così lo stesso. Pagate un casotto di soldi. Uno è da 30, questo che sto usando adesso, e l'altro è 35 ampere. E mangiarne ne ha un po' di baracchini, capito? Alimentare tutti qui da suddiviso con gli alimentatori, ma se un lettore è partito deve caricare tutto su un altro, capito? Quello è macello. Poi il Tesla giustamente non lo può far funzionare, batteria scarica. E io l'ho regalato uno di quei tester grandi stesso. Se no ce l'avessi avuto gliel'avrei prestato. Quel tester lì. E il mio si spegneva lo stesso. Quando tu non lo usi si spegne da solo. Anche il mio si spegne. Gianni, sì, Franco. Luca, ma Luca. Poi, no, mi sto facendo il caffè. E me, devo fare Lucia, o tu lo stai facendo? No, Lucia è uscita, è andata a fare la commissione all'amica sua. Non è capo. Me non prende molto caffè che ti fa diventare amaro, Ma cosa? Oggi la giornata di un ebu, ma... Ma tu lo dovevi scendere da remoto? No. Mi ha fatto vedere la serratura, c'è la prolunga, quella, quell'altro. La prolunga? Eia. Quale prolunga? Per il cancello. Ma lì bisogna smontare nella serratura, se no è un casino, per portare la serratura e vittugliare. Ma le vite la molla, è un casino, bisogna tagliarla tutta e rifarla da capo. Ah, se me lo le viti, vabbè, cioè, oppure va trapanato e poi rifilettato. Per forza così bisogna. Se no bisogna tagliare tutto e ricostruire la piastra. Infatti, io la vedo più facile ricostruire tutto, tagliare tutto. Anche io così non ti comporto a tempo, vi. Tagliare le viti, trapanare, fare la freddatura, tanto male tagli tutto. No, è tagliato e poi saldato. Capito. Ma lui mi ha detto per il momento la lascia così, non lo metti di caio tu. Non lo so. Comunque, quando lo vuoi fare, la saldatrice già ce l'ho, già l'hai vista, l'hai usata. È bella verginella e funziona bene. Adesso vediamo cosa c'è nel mondo, si può farlo. Una mattina scendiamo, tagliamo la piastra e la saldiamo. Scappa con la moneta e via dicendo. Avanti, tata lì. Infatti, andi, vai con la moneta, nei radini. E da voi li bono una piastra nuova e la zorra piazzata. Viva la saldatrice.